Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Un enorme palcoscenico, incorniciato da tendoni di velluto drappeggiato. Un'orchestra corredata di tutti gli elementi necessari all'ottima riuscita di un pezzo. Una gigantesca quinta di cartone dipinto si alza per lasciare spazio a un manipolo di coriste d'eccezione. Sono Trumpet Girl, Miss Piggy e Janice. Un gruppetto di uomini ribatte prontamente. Sono le voci di Bopity, Pig e Gloat. Poi è il turno della barzelletta di Fozzie. Qui segue il momento più istituzionale della presentazione fatta da Kermit in persona. Se quelli appena elencati vi sembrano nomi strani, il motivo è presto detto. Non si tratta di persone in senso stretto, ma di personaggi. Gli strepitosi personaggi del Muppet Show. I Muppets. I Muppets sono i buffi e intelligenti pupazzi di pezza che a partire dalla fine degli anni 60 hanno spopolato sugli schermi di mezzo mondo per la gioia di grandi e piccini. Il loro fascino è arrivato intatto fino ai giorni nostri, 50 anni dopo la loro creazione, tanto che la Disney, già da tempo detentrice del marchio dei Muppets, ha programmato per la fine del 2011 l'uscita di un ennesimo capitolo cinematografico che approderà nelle sale nostrane il prossimo 4 gennaio. Un successo senza precedenti per una combriccola di pupazzi di pezza. In Italia, per cercare un qualche degno paragone, bisogna correre con la mente alla Melevisione o al programma cult degli anni 80 Bim Bum Bam. Bim Bum Bam. Bim come bimbo. Bum. Bum come sparo. Bam. Bam come bambola. Protagonista assoluto e mascotte di Bim Bum Bam era Juan, buffo guastafeste con le sembianze di un cane peloso tutto rosa, chiacchierone, dispettoso e golosissimo di cremini. Juan rallegrava i pomeriggi dei figli degli anni Ottanta, dando a un giovanissimo Paolo Bonolis parecchio filo da torcere. Eppure è lo stesso Bonolis a ricordare ancora con molto affetto sia il suo ammasso di peli fucsia, sia la sua anima. E mi permetto in questa circostanza, anche se Juan ora ha un'anima meravigliosa attraverso la persona che gli dà l'anima, mi permetto di mandare un immenso abbraccio a Giancarlo Muratori, che è stata la sua prima anima. E insomma, con lui ho lavorato tanto. L'anima di Juan non è solo fatta di stoffa e gomma piuma, ma anche di carne ed ossa. Giancarlo Muratori, oltre ad essere autore di Bim Bum Bam, era anche la persona che dava corpo a ogni suo gesto e voce a ogni sua parola. Anche i pupazzi hanno un'anima, insomma. Un'anima fatta di estro, fantasia, coraggio e capacità di stupire, specialmente se il pubblico cui si rivolgono è composto da bambini. One in Italia e i Muppets in tutto il mondo smettono di essere semplicemente degli ammassi di pezza e diventano il tramite del dialogo tra adulti e bambini, il medium indispensabile a un processo delicato come quello della comunicazione con i più piccoli. Tutti noi, in qualche occasione, abbiamo avuto prova del legame affettivo che può crearsi con un pupazzo di pezza, non soltanto se con quel giocattolo effettivamente ci si dorme ogni sera fin da quando si è piccoli. Lo schermo televisivo fa da filtro, ma ciò non toglie che certi personaggi, animati dalla verve e dall'inventiva di alcuni uomini straordinari, siano rimasti impressi nell'immaginario di chiunque, grande o piccino che sia. e i Muppets certamente sono passati alla storia proprio in virtù della bravura di uno dei loro inventori e animatori, se così si può dire. Uno di questi uomini pieni di talento è il primo attore che anima la storia che stiamo per raccontarvi. Una storia che, come i Muppets, è fatta di stoffa, gomma piuma e tanta, tantissima fantasia. Il suo protagonista si chiama Jim Henson. Jim Henson. James Maury Henson nasce nel 1936 a Greenville, Mississippi, ma cresce a Hyattsville, nel Maryland, praticamente un quartiere inglobato nella grande area metropolitana della capitale degli Stati Uniti, Washington D.C. Già da ragazzino sa di voler lavorare in televisione. Quando la scatola magica fa la sua comparsa nelle case delle famiglie americane, l'adolescente Jim ne resta totalmente affascinato. Durante gli anni del liceo, insieme alla compagna di studi e futura moglie Jane Neeble, lavora in una piccola stazione televisiva locale. E questo è il loro punto di partenza, come Jim Henson in persona a raccontarci. La magia della televisione è quel che mi ha sempre affascinato. I pupazzi per me sono stati il modo, il mezzo in un certo senso, per arrivare a lavorare in televisione. Avevo sentito che una piccola TV locale cercava burattinai. Io facevo ancora il liceo e la TV era davvero agli albori. Insomma, mi sono ingegnato ed ho creato un paio di pupazzi. Così ottenni il lavoro. Ecco com'è iniziata. Jim e Jane allestiscono un piccolo puppet show la sera alle 11 sulle frequenze della WRC-TV, emittente locale dell'area di Washington. Il programma si intitola Sam and Friends e viene spesso utilizzato dall'emittente come una scusa per reclamizzare svariati prodotti di consumo. I pupazzi, che si muovono al suo interno, però, sono in qualche modo rivoluzionari. Niente di simile alle cose viste fino a quel momento. La televisione è un contenitore perfetto, capace di rendere i burattini assai più reali di quanto non accada dal vivo. A Washington D.C. e dintorni si incomincia ben presto a parlarne. E quella che era nata come una scusa per lavorare nell'ambiente si trasforma ben presto in un'attività a tempo pieno. È una carriera che nasce in maniera del tutto spontanea. Non credo ci sia nessuno che da bambino dice: «Mamma, voglio fare il burattinaio». Mi interessava la televisione, il cinema, l'arte. Jim è un ragazzo timido e dall'aria fragile, ma il suo sguardo gentile, filtrato dalla luce tenue di due occhi azzurro cenere, nasconde un animo vulcanico e immensamente creativo. È proprio da questo estro latente che prendono vita alcuni dei celeberrimi personaggi che ancora oggi sopravvivono non solo nella memoria, ma anche nell'immaginario collettivo, nonostante abbiano ormai 50 anni di età. Uno dei primi pupazzi ad animare la scena di Sam and Friends è un rettile nato dalla fusione tra la fervida immaginazione di Jim Henson e un vecchio cappotto verde appartenente a sua mamma. Forse non c'è bisogno che ti ami il mondo intero, basta che ti ami una sola persona. Oh, Kermit! La voce che avete appena sentito pronunciare una frase tanto romantica è quella della rana Kermit, nata da un brandello di stoffa verde e destinata a diventare compagna di giochi di milioni di bambini in tutto il mondo, oltre che il capostipite morale e fisico della buffa dinastia dei Muppets. All'inizio questo nuovo personaggio non è nulla di più di una specie di calzino con due occhi avvolto attorno alla mano sapiente del suo inventore Jim Henson. Eppure quel pezzetto di lana si rivela un veicolo perfetto per porre rimedio alla timidezza di un uomo che non si sognava nemmeno lontanamente di esporsi in prima persona sotto i riflettori, come lui stesso a raccontare. Beh, certamente Kermit fa e dice cose che io non farei né direi molto volentieri. Lui è un giocherellone ed è molto meno inibito di me. L'amore per i pupazzi, nato quasi per caso, diventa una passione viscerale. Ma se ad Henson non mancano di certo la creatività e l'inventiva, è anche vero che non possa dirsi ferratissimo dal punto di vista tecnico. Il suo Sam and Friends è un piccolo show trasmesso da una TV locale, un gioiello per l'emittente che lo manda in onda, ma una piccola goccia nel grande mare dei network televisivi americani. Quello che serve a Jim è fare un salto di qualità, trovare un collaboratore che regali al suo show l'aura professionale che consenta di fare prima o poi il grande salto. Esiste forse posto migliore di una convention di appassionati di pupazzi per incontrare un esperto di pupazzi? California, 1961. È proprio nell'assolata lingua di terra affacciata sull'Oceano Pacifico che si tiene all'inizio degli anni 60 la grande convention dei Puppeteers of America, associazione nata nel 1937 con l'intento di radunare tutti gli esperti dell'arte delle marionette, dei burattini e dei pupazzi in generale. Jim Henson è arrivato qui da Washington per esplorare un mondo affascinante. Un mondo che gli ha permesso di approdare sul piccolo schermo proprio come sognava da bambino. Ora però vuole fare un salto di qualità. E sarà proprio l'incontro con un altro uomo, anzi con un altro ragazzo straordinario, a cambiare per sempre il corso della carriera e anche della storia della televisione. Era giovanissimo, poco più che un adolescente. Avevo bisogno di energie nuove e di mani esperte e lui aveva bisogno di qualcuno che gli desse una possibilità. E uno scossone anche. Al raduno nazionale dei Puppeteers of America, Jim Henson incontra un 17enne intraprendente che si presenta come un fan entusiasta dei suoi lavori. Jim era silenzioso, timido, al punto che non avresti mai detto che quei pupazzi così splendidi li avesse fatti lui. Erano così nuovi, freschi, non somigliavano a niente di già visto. A pronunciare queste parole è proprio il ragazzo che a breve aiuterà Jim Henson a scrivere una pagina storica di televisione. All'anagrafe è registrato come Richard Frank Osnowitz, ma non passerà molto tempo prima che tutti imparino a conoscerlo col nome di Frank Oz. Frank Oz. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo i pur pochi passi di questo intrepido giovanotto. Un ebreo di origini polacche che vive in Europa alla fine degli anni 30 del secolo scorso non se la passa troppo bene. Il clima di intolleranza è alle stelle e la follia di Adolf Hitler è ancora ben lontana dal raggiungere i suoi vertici più raccapriccianti. Una delle possibili soluzioni per evitare di venire deportati è quella di trasferirsi all'estero. Ed è proprio questo quello che scelgono di fare Frances e Isador Osnowitz, i futuri genitori di Frank. L'Inghilterra sembra un posto sicuro per mettere su famiglia e far nascere un figlio senza vivere con l'angoscia della furia nazista. Frank nasce quindi nel maggio del 1944 ad Hereford, deliziosa cittadina nella regione del West Midlands. Forse per un ebreo lo spauracchio del nazismo non è mai abbastanza lontano. Ed è per questo che poco tempo più tardi, quando il piccolo Frank ha solo 5 anni, tutta la famiglia si trasferisce in California per ricominciare una nuova vita e frapporre un oceano intero tra il futuro luminoso e un doloroso passato di persecuzioni. Il padre di Frank, Isador Osnowitz, già nella vecchia Europa si guadagnava da vivere come burattinaio. La sua attività non cessa una volta trasferitosi con la famiglia oltreoceano, anzi, in quanto luminare nel campo delle marionette, gli Stati Uniti, la terra del sogno da costruire pezzo per pezzo con le proprie mani, lo incorona niente meno che presidente dell'Associazione dei Puppeteers of America. Un attore usa il proprio corpo come strumento, mentre l'arte che ho imparato da mio padre è quella dell'attore che non usa se stesso, le proprie braccia, le proprie gambe. Mio padre mi ha insegnato ad usare un'altra creatura come strumento. Con un papà così non stupisce se già a 12 anni Frank si diverte a esibirsi in spettacoli di burattini insieme ai familiari, intrattenendo stuoli di passanti per le strade e nei parchi divertimenti di Oakland, in California, la cittadina dove gli Osnowitz hanno scelto di trasferirsi dall'Europa. A dire il vero, Frank di suo non sarebbe particolarmente appassionato di pupazzi, ma per via dei retaggi familiari è talmente coinvolto in questa attività che non può fare a meno di conoscerla e praticarla alla perfezione. L'arte di manovrare pupazzi, inoltre, per un giovane poco più che adolescente, si rivela un ottimo modo per uscire dal guscio, parlare con le ragazze, guadagnare qualche soldo per viaggiare e mantenersi da solo. Non sogna di seguire le orme paterne, ma di costruirsi una carriera tutta sua. Vorrebbe fare il giornalista. Ed è per questo che, giovanissimo, attraversa l'America e tenta la fortuna a New York. Quando mi avventurai a New York da Oakland, California, in cerca di fortuna, una mia amica mi disse che lì ci sarebbero state migliaia di persone nella mia stessa identica situazione e che dovevo farmi in quattro per trovare le giuste opportunità da sfruttare. Eppure l'opportunità della vita finisce per trovarla non nella Grande Mela, bensì in quella stessa California da cui si era allontanato in cerca del suo futuro. Alla Convention Nazionale dei Puppeteers of America, alla quale partecipa insieme ai genitori, Frank incontra Jim Henson e resta letteralmente sbigottito per la novità del suo approccio all'arte dei pupazzi. I due chiacchierano a lungo, si confrontano, si scambiano i rispettivi numeri di telefono. Se Jim ha appena 25 anni, Frank ne ha solo 17. È troppo presto per lui per farsi un'idea chiara di quello che vuole dalla vita. Eppure Jim è riuscito ad aprire un varco nelle sue certezze. La carriera da giornalista improvvisamente non gli sembra più l'unico traguardo cui ambire. E pensare che Jim e Frank di carattere sono diversi come l'acqua e il fuoco. Jim ed io eravamo l'opposto praticamente in tutto. È proprio da questa diversità che scaturisce la forza dirompente del loro incontro. Sono due figure complementari, indispensabili l'una all'altra. Uno più sognatore, l'altro più pragmatico, uno pieno di idee e l'altro pieno di soluzioni per metterle in pratica, entrambi supportati da un'immaginazione fervida e galoppante. Da queste due menti straordinarie, unite a due paia di mani fuori dal comune, sta per nascere la squadra di pupazzi più celebre della storia della televisione mondiale. I Muppets sono pronti ad affacciarsi alla ribalta del piccolo schermo. Destini incrociati. Destini incrociati è in California, al raduno nazionale dei Puppeteers of America. Qui si incontrano per la prima volta Jim Henson e Frank Oz, entrambi giovani ed entrambi, ciascuno a modo proprio, esperti di pupazzi. È il 1961 e Jim Henson, già da qualche anno, ha un programma di intrattenimento per bambini su una piccola TV locale dell'area di Washington. Tutto era cominciato a metà degli anni 50, quando Jim, tagliuzzando e ricucendo un vecchio cappotto verde di sua madre, si inventa di sana pianta un pupazzo nuovo di zecca, la rana Kermit. Uno dei primi pensieri fu quello di creare un personaggio attraverso il quale un bambino potesse vivere delle esperienze. Un personaggio che in un certo senso fosse il bambino stesso. Inventarsi una grande creatura buffa che facesse gli stessi errori e commettesse le stesse leggerezze dei bambini. Parlare ai bambini usando il loro stesso linguaggio. E questa è la chiave del successo delle prime apparizioni televisive dei personaggi creati da Jim. Ma per fare il grande salto servono più idee, più pratica e molti più personaggi. Frank Oz, aspirante cronista, dopo l'incontro con Henson, sceglie di abbandonare le velleità giornalistiche per seguirlo nell'impresa. È proprio lui a parlarci di quanto Henson sia stato fondamentale all'inizio della sua carriera. Io non so dire quanto mi è stato d'aiuto. Ho iniziato questo mestiere che avevo solo 19 anni. Mi ha dato delle opportunità straordinarie e mi ha insegnato così tante cose. Due anni dopo il primo incontro, nel 1963, Frank Osnowitz entra a tutti gli effetti a far parte della banda scatenata di pupazzi e pupazzisti che si sta via via formando sulla scia dell'immaginazione di Henson. Ed è proprio Jim, giustamente, ad aver scelto un nome per la sua nuova combriccola di amici immaginari. È un nome di pura fantasia, ma nasce dalla combinazione dei termini marionette e pupazzi, in inglese marionettes e puppets. E così, da una sorta di fusione ideale e lessicale, nascono i Muppets. Buongiorno, il mio nome è Jim Henson e sono un burattinaio. Mi definiscono così perché lavoro coi burattini e le mie creazioni si chiamano The Muppets. Anche Frank Osnowitz cambia, anzi accorcia il suo nome. Durante uno sketch al Jimmy Dean Show, un pupazzo, il cane pianista Rofl, finge di non riuscire a pronunciare il suo complicato cognome di origini polacche, scherzandoci su e riducendolo a un più semplice Oz. Oz, proprio come il mago. In due lettere c'è scritto il destino di un uomo che con la magia dell'immaginazione saprà creare cose incredibili. I Muppets, pupazzi buffi e allo stesso tempo arguti, rappresentano una nuova frontiera dell'intrattenimento per i più piccoli. Non si tratta soltanto di sfornare battute divertenti, ma di fabbricare idee brillanti. L'immaginazione degli animatori dei Muppets va ben al di là dei pupazzi. Nel 1965 Jim Henson viene addirittura candidato all'Oscar per Time Piece, corto di 9 minuti che stavolta non coinvolge animali di pezza, ma lascia libero sfogo alle sue fantasie più sfrenate. Ma l'incursione nel cinema sperimentale del loro creatore non aiuta certamente i Muppets ad emergere. L'allegra banda di pupazzi aspetta ancora di trovare l'occasione perfetta per sfondare. Made a monkey out of old King Kong, and I hope that something better comes along. Ah, but what could be better than a saucy Irish setter when puppy love comes on strong? Or a collie that's classy, a laddie needs a lassie, a lover and a wife gives you a new leash on. I Muppets continuano a fare apparizioni televisive in show più o meno popolari e in svariate pubblicità, ma senza mai sfondare veramente. La banda di personaggi creati dal genio visionario di Henson e Oz, intanto, si è gradualmente evoluta lungo tutto il corso degli anni 60. A far parte della squadra ora ci sono, oltre al pioniere Kermit, le figure scaturite dalla fantasia di Frank Oz, il peloso Grover, Bert del duo di coinquilini Ernie e Bert, il leggendario Cookie Monster, mostro blu golosissimo di biscotti, e una quantità notevole di personaggi minori destinati in molti casi a evolversi e a crescere di importanza. Quando creavo i personaggi, non pensavo a che voce dovessero avere. Io pensavo al personaggio, a che tipo di personaggio dovesse essere. La voce scaturiva direttamente da lì, col progredire del personaggio. Frank Oz non ha dubbi. La squadra dei Muppets è una compagine solida e formidabile, nonostante in qualche modo sia in continua evoluzione e segua i capricci creativi dei suoi ideatori. Anzi, è solida proprio per questo. Sono i guizzi di Jim e Frank a rendere i pupazzi irresistibili. Ora serve qualcuno che non sappia resistere alla tentazione di mandarli in onda. Il colpaccio per i Muppets arriva finalmente alla fine del decennio. Nel 1969 il Children's Television Workshop, organismo no profit a tutela dell'infanzia, chiede a Jim Henson e alla sua squadra di aiutarlo a insegnare ai bambini varie cose e di farlo all'interno di un programma televisivo completamente nuovo e sperimentale chiamato Sesame Street. Lo show, inizialmente trasmesso dal canale NET, National Educational Television, cambia tutte le regole preesistenti, per i bambini, per i loro genitori e per la televisione in generale. Sesame Street significa Via Sesamo, un po' come il celebre Apriti Sesamo, pronunciato da Alibaba nella fiaba delle Mille e una Notte. Una formula magica in grado di evocare e di schiudere un mondo di cose nuove, interessanti, esaltanti, avventurose. I bambini a Sesame Street sono costantemente stimolati al gioco, ma non si tratta del gioco puro e semplice, fine a se stesso. Non è questione di intrattenere, ma di accompagnare i più piccoli nel meraviglioso sentiero della scoperta. Un percorso imprescindibile per due uomini che della curiosità e dell'esperimento hanno fatto la propria ragione di vita, come racconta Frank Oz. Penso che ogni personaggio fatto da me o da Jim Henson avesse un po' sia del personaggio sia di noi stessi. Le due cose erano inscindibili, erano personaggi universali e allo stesso tempo riflettevano quello che noi stessi eravamo come individui. A Jim e Frank non interessa semplicemente seguire la strada dell'edutainment, education and entertainment, ovvero apprendimento unito al divertimento, ma anche divertirsi a loro volta. Gli sketch, i numeri musicali, i dialoghi sono tutti frutto di un approccio genuino, vero e sentito. A Sesame Street si imparano le basi della lettura e dell'aritmetica, si cantano filastrocche piene di colori, lettere, numeri e giorni della settimana. Si danno piccoli e grandi consigli sulle azioni della vita di tutti i giorni, spesso prendendo a modello o parodiando format televisivi già conosciuti come la sitcom, il varietà o il talk show. Si ripescano persino le colonne sonore di improbabili documentari sulle abitudini sessuali svedesi. La canzone che sentite in sottofondo, resa celeberrima proprio dai Muppets, in realtà è stata scritta dall'italianissimo compositore Piero Umiliani, apposta per il film Svezia, Inferno e Paradiso di Luigi Scattini. Una chicca di puro nonsense musicale, un motivetto ideale per far canticchiare e divertire i bambini e anche i grandi. E i primi a divertirsi, a Sesame Street, sono proprio gli autori del programma. La cosa più bella di tutte era guardarlo ridere fino al punto di piangere. Gli veniva in mente una battuta, ma non riusciva a dirla. Le lacrime gli solcavano le guance e tentava disperatamente di finire la frase, ma non ce la faceva proprio. Se la squadra di pupazzi che si agitano allegri a Sesame Street è affiatata, lo è anche quella che si muove dietro le quinte, come ricorda ancora Frank Oz. C'erano davvero ottimi personaggi. Erano fighi piuttosto che coccolosi. Sono sempre rimasti irriverenti in qualche modo. E tra di noi, noi che li impersonavamo, c'era molto affetto. C'era un sacco di affetto nella nostra squadra. Quindi anche quando i nostri personaggi litigavano per questioni di scena, sapevi che c'era affetto dietro a quella litigata. Forse la chiave del successo è proprio questa. A Sesame Street i grandi si divertono come i bambini. È un programma pensato per intrattenere anche gli adulti, studiato per incoraggiare i genitori a guardarlo insieme ai loro figli. Una vera e propria rivoluzione sul piccolo schermo, iniziata e portata avanti niente meno che da una banda di pupazzi. We're closer now than ever before. How much alike we are. Perhaps we're long lost brothers. There's love in our world and we're showing it more. We even think the same, you know there may be others. Our world says welcome stranger, everybody's a friend. We can always use a friend. Favorite stories to tell. Destini incrociati. Destini incrociati è a Sesame Street, la via dove una squadra di pupazzi sta cambiando per sempre il modo di fare televisione per i più piccoli, con un occhio di riguardo rivolto anche ai più grandi. Jim Henson e Frank Oz, detentori delle due menti che sfornano le idee, delle quattro mani che le fanno muovere e delle voci che le fanno parlare, sono una coppia affiatatissima. Frank Oz in particolare ricorda ancora l'atteggiamento di Henson nei confronti del mestiere, quel modo di fare che all'inizio degli anni 60 lo convinse ad abbandonare la strada del giornalismo per intraprendere quella di co-inventore dei Muppets. Credo che tra di noi abbia funzionato soprattutto grazie alla sua pazienza e alla sua comprensione, doti che esercitava sia in privato che sul lavoro, in quella meravigliosa fucina creativa che ho avuto la fortuna di condividere insieme ad altre persone. Grazie a Sesame Street, l'educazione prende una piega inaspettata, del tutto nuova. Se un canale di news vuole parlare di un argomento difficile in modo divulgativo e comprensibile, beh, non resta che chiedere aiuto a uno dei Muppets. Se non è insolito vedere la rana Kermit alle prese con le filastrocche sull'uso degli aggettivi, non è strano nemmeno vederlo discettare di finanza in maniera semplice, chiara e cristallina. Eppure non è un'impresa facile convincere i più scettici che i burattini non siano semplicemente una roba per bambini. Tutto sta nell'acquistare giorno per giorno la fiducia del pubblico, cercando di fare il proprio lavoro nel migliore dei modi. Jim Henson, intervistato agli albori dell'esperienza di Sesame Street, non ha la minima idea del successo cui le sue invenzioni stanno andando incontro. È difficile prevedere quanto a lungo vivranno. Credo che sia qualcosa che scopriremo dal pubblico. Se il pubblico vorrà che questi personaggi continuino a vivere, allora lo faranno. Quando il pubblico si stancherà, loro se ne andranno. Semplicemente. Il pubblico sembra proprio non stancarsi dei colorati, pelosi personaggi di Sesame Street, tanto che i suoi creatori punterebbero a fare il salto di qualità. Il progetto di portare i Muppets in prima serata, però, viene rifiutato da ben tre diversi network. In America nessuno sembra credere fino in fondo alle potenzialità dei Muppets. Oltre oceano, invece, nella vecchia Europa, c'è qualcuno che intuisce l'enorme potenziale di Kermit e soci. Se i Muppets chiamano, la TV britannica risponde. E così che nasce il Muppets Show. Ecco il Muppets Show con il nostro ospite speciale Sylvester Stallone. Yeah! Dopo due puntate pilota andate in onda alla TV americana, il Muppets Show approda all'emittente inglese ITV. Lo show viene trasmesso non solo in Inghilterra, ma in ben 106 paesi, tra cui l'Italia, come avrete certamente intuito dal doppiaggio della nostra lingua. Ben 35 milioni di persone ogni settimana guardano le avventure della banda degli amici di Kermit, folto gruppo che continua ad arricchirsi di nuovi elementi. Fanno la loro comparsa Miss Piggy, Gonzo, Scooter, Fozzie e tanti altri buffi animali intelligenti e chiacchieroni, pronti a intrattenere grandi e piccini con le loro fantastiche storie. È un mago della narrazione a intessere le loro lodi. Passiamo la parola a niente meno che a Steven Spielberg. Jim Henson was a master storyteller. Jim Henson era un fenomeno nell'arte del raccontare storie. È quasi limitante fermarsi a guardare solo le sagome dei suoi personaggi, Kermit la rana e via discorrendo. Lui inventava mondi fantastici popolati di creature, è questo quel che faceva. Più la sua immaginazione correva, più lui si divertiva a scovare ritrovati tecnologici che stessero al passo con quelle fantasie e che gli consentissero di raggiungerle. Era alla costante ricerca di strumenti per gli effetti speciali. Il mondo di Jim Henson è popolato non solo di pupazzi, ma anche di piccoli robot e creature meccaniche che fanno di lui un vero e proprio pioniere dell'animatronica, l'arte di utilizzare componenti elettrici e meccanici per conferire autonomia di movimento ai suoi pupazzi. Un sognatore, ma anche un tecnico abile e testardo, convinto che qualunque sogno possa davvero trasformarsi in realtà. Cuore e tecnica diventano un tutt'uno se si parla delle creazioni di Henson e Oz. Il sentimento, comunque sia, è sempre il fulcro delle loro narrazioni. È lui a dare un senso all'esistenza di quei molteplici mondi immaginari popolati da animali fantasiosi e mostri che insegnano a cantare e a contare, invece che far paura. I Muppets spopolano in TV e al cinema per tutto il corso degli anni 70 e 80. E a proposito di grande schermo, Jim Henson e Frank Oz si cimentano volentieri con sperimentazioni che esulano dal mondo dei pupazzi. È il caso di The Dark Crystal, film fantastico dove i due siedono insieme dietro alla macchina da presa. Oz non solo si cimenta in qualità di regista, ma nel 1979 si ritrova anche a prestare la propria voce a uno dei personaggi più bizzarri della storia del cinema. La grandezza non conta. Guarda me. Giudichi forse me dalla grandezza? Non dovresti farlo, infatti, perché mio alleato è la forza. Ed un potente alleato essa è. La vita essa crea ed accresce. La sua energia ci circonda e ci lega. Illuminati noi siamo, non questa materia grezza. Tu devi sentire la forza intorno a te, qui, fra te, me, l'albero, la pietra, dovunque. Chi altri, se non il maestro Yoda, può discettare con tanta sicurezza sull'uso della forza? Ed è proprio Frank Oz a prestargli la voce nella versione originale della celebre saga di Guerre Stellari. Oz fa un passo in più verso il cinema, pronto ad accoglierlo a braccia aperte in qualità sia di regista che di attore. Un talento poliedrico, capace di spaziare da Guerre Stellari ai Blues Brothers, dalla commedia ai film d'azione, senza apparente soluzione di continuità. Le carriere di Hans ed Henson, trainate dal successo dei Muppets, procedono a gonfie vele, ma il destino purtroppo non ha in serbo solo sorprese piacevoli. Nella primavera del 1990 Jim Henson contrae una grave forma di polmonite, ostinata e fulminante. Per lui non c'è davvero niente da fare. Aveva solo 53 anni e la sua morte, avvenuta oggi, è stata una sorpresa per tutti. Il New York Hospital ha annunciato che il burattinaio Jim Henson era stato ricoverato martedì con i sintomi di una polmonite fulminante, sintomi che erano stati ignorati per almeno i 3 giorni precedenti il ricovero. Stamattina, all'1:30, è morto. Chiamando Jim Henson burattinaio, non ci si avvicina neanche lontanamente a rendere giustizia a quello che quest'uomo ha realizzato nel corso della sua carriera, né all'amore, né alle emozioni, agli insegnamenti che i suoi personaggi hanno regalato a milioni di persone in tutto il mondo. Se non fosse stato per Jim Henson, Frank Oz avrebbe dato retta alle sue velleità adolescenziali, avrebbe fatto il giornalista, e noi non avremmo mai fatto la conoscenza di Miss Piggy, tanto per dirne una. Forse avremmo capito molte meno cose non solo del mondo dei bambini, ma anche di noi stessi. Why are there so many songs about rainbows? What's on the other side? Rainbows are visions, but only